150 istituti nella Spagna del Nord, dove una violenza allusione ha fatto via un intero campetto. Pare che tra gli avvocati turisti, ospiti del campetto, non ci fossero italiani. Ultima riunione del Consiglio dei Ministri prima della pausa di Ferragosto, ha cominciato la pausa di accompagnamento per le merci, varato lo statuto dei comandi. Capita tua madre, e stanotte ti piombo di telefonate. Per forza? Davvero? Poi ti lamenti quando vengo a casa tua, vero?